A tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Flavio Suare in redazione, Fabio Cantadori in regia. Sarebbe antistorico e anacronistico da parte nostra, per dirla con Sandro Piccinini, dribblare l'argomento Moviola, che non c'è più, almeno sulla Rai, almeno in apparenza e nella forma. Vari pareri li abbiamo già sentiti e letti, mi manca a questo punto quello che mi interessa di più, cioè quello vostro. 800240024 il numero verde. Tra gli altri, intanto ho sentito su queste frequenze ieri sera anche quello di Aldo Biscardi, che è stato ospite del mio amico Giuseppe Cruciani nella Zanzara. Sentiamo. Ti pare che può rinunciare alla Moviola? Cioè, quando l'arbitro sbaglia e tutti i giornali dicono che c'è un errore o un presunto errore, se ne deve parlare per forza, se deve documentare. Adesso farà un passo avanti, magari farà un accordo con gli altri, interverranno gli altri, interverrà Nicchi. Tra l'altro il presidente degli altri Nicchi, sì, quello che mi ha fatto la Moviola a me per 3 anni consecutivi. E dunque adesso dice, dopo, questo è interessante, perché Nicchi, dopo, è vero, ha fatto per 3 anni al processo del lunedì la Moviola, no? La Moviola, sì, esatto. Adesso lo sai che dice? Meno male, la fine dei dibattiti da bar dello sport, ti rendi conto? Vabbè, ognuno la pensa come vuole, la vita è fatta così. E qual era la sigla l'anno scorso? Dammi la Moviola. Com'era la sigla, Aldo? Dammi la Moviola. Come faceva il canto, no? Perché dammi la Moviola, pum. Dammi la Moviola, questo. Beh, certo. Ho fatto io le parole. Come? L'hai scritta tu la sigla? Antonio Di Pollina è quello che per primo ha dato il fuso sulle pagine di Repubblica, la ferale notizia. Ciao Antonio. Buongiorno, ciao. Diamo i meriti al collega Fulvio Bianchi, però, che è l'autore vero dello scoop, diciamo. Sì. Biscardi che canta, ti piace Biscardi che canta? Ecco, appunto, dopodiché mi stavo chiedendo se mettermi a cantare, quantomeno per risarcire un po' gli ascoltatori, ma come dire, bypassiamo. Niente, si può dividere, per esempio, si può decidere subito che se Biscardi è ancora e sempre così favorevole, forse molti pensano che la Rai stia facendo bene invece. Io mi immagino, dopo che hai scritto quello, che dopo quella pagina di ieri, mi sono subito figurato milioni di italiani in lacrime, milioni di mogli in festa che prenotano in tutti i ristoranti disponibili. Lo scenario è un po' questo, no? Perché è un argomento su cui, insomma, su cui ci accapigliamo continuamente, ma vale la pena di riderci sopra, secondo me. Anche sì, perché mi sa molto perché... di. Dimmi. Sì, anche perché alla fine la Rai, che comunque, cioè, questa cosa è molto più forte il valore simbolico, la portata simbolica del pronunciamento, dell'annuncio e del fatto di dire noi partiamo di. Da questa cosa, magari per tornare un po' indietro, per rivedere un po' i toni, per ragionarci sopra e tutto quanto, perché alla fine davvero si riduce fondamentalmente a uno spazio nella domenica sportiva, quello gestito da Teocoli e Tombolini, tanto per intendersi, ma di cui si ricordano soprattutto loro due che scherzavano e battibeccavano, quindi, come dire, non quello lì come momento fondante rispetto a 20 anni fa non c'era davvero più, quindi è molto più forte la portata simbolica dell'annuncio Rai, che dice vabbè, noi facciamo questa cosa o quantomeno ci proviamo, poi si scopre che subentrerà un altro tipo di valutazione, e soprattutto mai nella vita, in sede di cronaca, in sede di servizi, sulle partite e così via, se c'è un episodio alla Lampard in Inghilterra, mai nella vita alla Rai si sogneranno di nasconderlo. Certo, questo certo. Mi pare evidente. Diciamo che la sostanza è nella forma in questo caso, a me sa molto anche di demagogico, ma anche questo non scopre nulla di nuovo, no? Adesso c'è la Cassazione. Possiamo parlarne, perché su un argomento simile è fatto davvero apposta per avere 30 idee diverse, 31 opinioni diverse, e alla fine quasi tutte magari un po' di senso ce l'hanno. Sì. Magari è davvero antistorica come cosa, o è antistorico proporsi in questo modo, come dicendo torniamo indietro, però invece magari molta gente che davvero ci se sente dire una cosa di questo genere gli migliora l'umore, probabilmente c'è. Sì, che poi alla fine la vita e la morte di ogni programma televisivo, perché di questo stiamo parlando, la decretano gli ascoltatori con il telecomando, no? Quindi, E non credo, francamente, a parte che ormai la domenica sportiva contro, cioè quelle trasmissioni di approfondimento a tarda sera rappresentano davvero un di più per appassionati fanatici rispetto a quello che è ormai il posto dove davvero si assietano milioni e milioni di telespettatori, e che sono le partite in diretta, dove il replay dell'azione nessuno si sognerà mai di toglierlo. Ma perché quella è cronaca, quella è cronaca. Sì, cronaca, e magari anche se poi è clamorosa farla vedere un attimo dopo, e se ci sono due opinionisti in studio, uno dice bianco e l'altro dice nero, e quello non mancherà. Ma stiamo parlando di altre reti, la RAI arriva solo con 90° minuto, quindi un paio d'ore abbondanti dopo la fine delle partite a proporre tutto questo. Vediamo cosa succede, mi pare abbastanza difficile che comunque non ne parlino in nessun caso, ma loro hanno fondamentalmente inteso dire noi la smettiamo con il teatrino legato alla Moviola, poi vediamo come va. Intanto il primo messaggio che ricevo oggi è 349-238-6666 di Michele da Milano, che scrive: aumenteranno le procreazioni, grande notizia l'abolizione della moviola. Questo è il primo messaggio di oggi, 349-238-6666, aspetto gli ascoltatori. Antonio, ti chiedo un attimo di pazienza, traffico, poi voglio capire se e quanto, almeno a tuo giudizio, la moviola che esce dalla porta della RAI rientrerà, probabilmente in misura maggiore, ma già è stato detto, da tutte le finestre di Mediaset. Problema vero non è la moviola, ma chi ci crede sul serio e scrive messaggi tipo: la moviola è servita anche per affossare la Juve, ora c'è l'Inter e tutto va bene. Ipocriti, Vladi, questo. Antonio Di Polli: la moviola che esce dalla porta della RAI rientra dalle finestre Mediaset perché è antistorico e anacronistico, dice Piccinini, togliere questo tipo di strumento, quindi assisteremo a un moltiplicarsi dei replay, secondo te, sugli schermi Mediaset? Assisteremo a un'insistenza sicuramente maggiore rispetto al passato, ma loro ragioneranno a controcampo, perché di quello stiamo parlando, più o meno come hanno sempre fatto, ovvero se c'è l'episodio contestato, se le squadre in campo sono quelle che hanno molti tifosi, se si possono scatenare due opinionisti in studio uno contro l'altro, figuriamoci, se prima era a livello 9 diventerà a livello 10, sapendo che di là in teoria invece stanno parlando d'altro e di cose che non richiamano il famoso pubblico, e quindi sì, qualcosina un po' ci marceranno, e lì si tratterà di capire e vedere davvero se la RAI manterrà questa promessa, tra virgolette. Senti, ma questa storia della Cassazione con i famosi tre episodi più eclatanti da domenica, rinviati all'AIA e con sentenza con tempi lunghi tipicamente italiani una settimana dopo, e forse con il rischio della prescrizione, Sì, questa è la cosa che mi dà più da pensare e che fa parte di un cotè in cui sono entrati in maniera prepotente anche le istituzioni, ovvero gli arbitri e le loro associazioni, che evidentemente sono molto parte in causa in questa decisione della RAI. Anche lì vediamo come andrà a finire, messa in questo modo delle tre cose, a parte che sembra un talent o un reality, ma per di più a scoppio ritardato di una settimana, vediamo un po', ma non ispira una clamorosa fiducia. Io confido, quello che succederà soprattutto è quello che dicevo prima, ovvero la gente continuerà a guardare soprattutto le partite in diretta, continuerà a farsi un'idea sui replay istantanei e al massimo sul commento dell'immediato dopo partita. Dopodiché tanti saluti per il grande pubblico, a tarda sera quel milione di affezionati, 2 milioni quanti sono, che ancora di voyeur, a tarda sera, ebbene, avranno chi per una parte, chi in un modo e chi in un altro, di che godere anche in questo caso, di che divertirsi. Sì, fondamentalmente sì, stiamo parlando di quello. Voglio chiederti ancora una cosa, Antonio, che non riguarda la Moviola, ma i grandi movimenti di Mediaset, a cominciare dalla battaglia del grano, se lo ritieni corretto, con Sky, Calcio e Gallery, l'ultima offerta di Mediaset sempre più ricca, con un sacco di personaggi, ancora devo capire bene la collocazione, compresa la fidanzata di Casillas, però Calcio più Gallery a 14 euro, leggevo. Sì. È una promozione a prezzi davvero, davvero stracciati, fatta da chi evidentemente primo se lo può permettere di regalare o quasi, per carità, 14 euro li rispettiamo sempre tutti, ma comunque di mettere un prezzo così basso, e denota un'aggressività assoluta nei confronti della concorrenza, anche nelle dichiarazioni che sono state fatte ieri alla presentazione degli stessi Sport Mediaset, dove tutti, a cominciare da Piccinini che citavi prima in giù, sono stati molto aggressivi nei confronti di Sky. Sulla fidanzata di Casillas invece c'è una cosa curiosa, secondo me, se vuoi te la dico, se non abbiamo tempo no certo, voglio saperla. No, sembrava che l'avessero ingaggiata per venirsene in Italia, no, invece starà lì e farà servizi e cose per le trasmissioni, possibilmente quelle di Mediaset Premium, dalla Spagna, per parlare di Mourinho, di Real e di Barcellona. Qual è il paradosso? Che in realtà farà pubblicità a un prodotto che è, questo sì, della concorrenza, perché il campionato spagnolo, almeno a quel che risulta finora, è di Sky e dovrebbe continuare a esserlo anche quest'anno. È davvero una mossa piena di interrogativi, ma che bene o male ha fatto sì che tutti i giornali titolassero e soprattutto mettessero la foto della strepitosa, francamente, signorina. Certo, foto della signorina in questione ne vogliamo su tutti i giornali tutti i giorni, non c'è dubbio, però quanto dice è vero, fa pubblicità a un prodotto che è di un altro, però li vedrai che trovano che insomma sarà qualcosa di incentrato su di lei e su Mourinho. Non credo sarà una roba molto calcistica, ecco. Molto tecnico-tattica. Grazie Antonio, un abbraccio. Grazie a voi, ciao. Grazie ad Antonio Di Pollina. La voce che mi interessa sull'argomento è quella degli ascoltatori, dicevo prima, 800 24 00 24, chiamate, se no vi faccio risentire Viscardia che canta, ma ci sono tanti gli ascoltatori che intervengono. Pietro da Roma è il primo, buongiorno. Buongiorno, il provvedimento della RAI, come si diceva una volta, la pubblicità non dura minga. No, non può durare, detto così da un romano in dialetto milanese, non è male. E non di una minga che pensa mi non esiste. Allora io credo che il progresso non va fermato. Se lo immagina lei, tutti coloro che tifano per le squadre medio piccole, che in un tempo si lamentavano a ragione degli arbitraggi a senso unico, cosa scatenerà oggi che finalmente ogni tanto qualche soddisfazione attraverso diciamo l'errore arbitrale documentato, che adesso secondo la RAI è una cosa pericolosa. E invece io credo che il progresso non va fermato, e quindi questa io dico che i dirigenti della RAI progresso non avevano nulla a cui pensare. Pietro, è qualche annetto che c'è questo progresso, stiamo andando indietro agli anni 60. Dopo quanto è successo ai campionati del mondo, dopo quegli errori clamorosi, il pallone è entrato mezzo metro e anche di più dentro la rete, togliere la moviola, ma questo è oscuro. Ma lì non serviva la moviola, insomma, lì è stato un errore arbitrale talmente enorme che non serviva la moviola. Poi stiamo parlando di moviola televisiva, non di moviola in campo, in questo caso di moviola televisiva che scompare dagli schermi della RAI e che almeno formalmente che rientra, ma commossa, che è più che altro di facciata, no? Come dicevamo prima, più di forma che di sostanza, anche perché a quell'ora i replay, chi li ha voluti vedere li ha già visti 100 volte, un'idea se l'è già fatta, scompare più che altro il contorno il teatrino intorno a quei fotogrammi rallentati. Dal mio punto di vista, vi dico la verità, la moviola l'ho sempre trovata di una noia mortale, anche quando la faceva il grandissimo Carlo Sassi, cioè era una cosa che mi induceva in quel momento a... era il classico momento in cui andare in bagno o andare a bere un bicchiere d'acqua per me la moviola, ma è questione di gusti personali. Io capisco il fatto che insomma possa togliere qualche argomento di discussione al bar del lunedì, secondo me è tutto qui. Non so se c'è Ermanno, se è tornato Ermanno, se è caduto Ermanno da provincia di Trento, poi andiamo in provincia di Alessandria. Salve Ermanno. Pronto? Pronto, sì, buongiorno, mi sente? Buongiorno, sì, la sento bene. Sì. Niente, io sono favorevole all'abolizione, se non abolizione, alla riduzione drastica della moviola, anche se la difficoltà che vedo è che se si parlerà finalmente di calcio, di tattica, di tecnica, probabilmente tante persone, tanti giornalisti che in questo momento viaggiano sulla polemica si troverebbero in difficoltà, senza voler offendere nessuno chiaramente. Sì. E penso anche che portare il discorso sulla tecnica e sulla tattica probabilmente si riuscirà a svelenire un attimino il clima, perché io credo che per gente che ama questo sport sia diventato quasi esclusivamente moviola. Sì. Se anche Mediaset si adeguerà, secondo me no, ma è importante. Ma Ermanno, Mediaset farà l'esatto contrario, no? Cioè quello sì, che la RAI non dà più moltiplicherà quello che la RAI non dà più, e quindi io ripeto, insomma, i palinsesti alla fine li fanno gli ascoltatori, il successo delle trasmissioni televisive li determinano gli ascoltatori con il telecomando, e quindi se fanno qualcosa una ragione ci sarà. No, e sarà interessante capire se attraverso quel benedetto telecomando gli italiani sceglieranno a ora tardi, i voyeur del calcio italiani sceglieranno le zuffe di Mediaset o presunti dibattiti tecnici che adesso vorrei vedere, che vorrò vedere sulla Rai. Poi andiamo a leggere i dati e capiamo che cosa agli italiani piace di più, no? C'è anche chi scrive, Giovanni da Modena, ma non c'è nulla di male nel leggerlo, caro Giovanni, il suo messaggio, al di là delle parolacce che non leggo, però il senso è che questa decisione palesemente avvantaggia la rete Mediaset e il suo proprietario che, guarda caso, monitora la RAI, scrive Giovanni. Mi sembra un po' intriso di etrologia questo, però insomma è un'opinione e come tale la giro all'auditorio. Daniele da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Premesso che io sono uno che guarda poco, sempre guardato poco la moviola, anche a me mi dà una noia mortale. Io volevo fare solo una piccola digressione, volevo un suo parere a proposito del discorso della moviola in campo. Sì. Viste le tante TV che trasmettono la moviola, spesso e volentieri su un determinato episodio si riesce a non essere d'accordo in 4-5. Immagino cosa dovesse succedere se in campo si verificasse, sì, certo, una cosa del genere. Cioè si alimenterebbero i sospetti delle combine, degli arbitri, delle partite truccate, degli arbitri ricomprati e quanto... Ma no, non credo che si alimenterebbero, più che altro non si giungerebbe... Ma al di là di questo, anche se fosse possibile giungere a soluzioni univoche, insomma, il mio pensiero l'ho già detto anche troppe volte, se la moviola diventa il grande fratello del calcio, chiaramente cambia tutto. Più che altro è la capacità di accettare certi errori che in Italia non è diffusa. Ecco, continuano, io in questi giorni ovviamente le prime parole che mi sono tornate in mente sono state quelle, ma non solo a me, perché leggendo anche oggi i giornali li vedo riportate un po' ovunque. Insomma, la cosa che più mi ha colpito, una delle cose che più mi hanno colpito nella scorsa stagione sono state quelle parole di Carlo Ancelotti dopo che gli era stato regato un rigore solare alla fine dei conti, determinante per l'andamento della Champions League in generale, di quella del Chelsea in particolare, le parole di Ancelotti di fronte al replay negli spogliatoi di San Siro che mostrava quel fallo nettissimo che l'arbitro di turno non aveva visto. E Carletto Ancelotti dice: mai, non sono più abituato a commentare episodi di questo tipo, fate voi. Quelle sono state le parole di Ancelotti e quello è l'episodio che più è una delle dichiarazioni che più mi hanno colpito nella stagione scorsa, ma credo anche voi. Carmelo, provincia di Monza, buongiorno. Buongiorno. Senta, a proposito della dietrologia, non penso che ce ne sia molta, vista il lungo elenco dello smantellamento dei programmi RAI, ovviamente tutto a vantaggio della concorrenza. Sì. Più spettatori sui programmi Mediaset, più pubblicità da parte delle aziende che spendono milioni di euro. Lo scrive alla fine, anche Egidio. C'è poco di dietrologia, no? L'elenco è questo. Ma facciamo finta che la scelta di abolire la moviola nell'RT RAI sia una scelta, diciamo così, solamente di tecnica. Ma quindi lei è convinto, così dicendo, un pensiero che è diffuso dagli ascoltatori anche via anche il popolo degli SMS, quindi lei è convinto che questa scelta avvantaggerà Mediaset? Sì, sicuramente. sicuramente, ma solo ed esclusivamente per un discorso di maggior audience. Sì, sì, ho capito, questo è chiaro, è chiaro, avvantaggia le reti di Berlusconi, perché insomma, quindi lei è convinto che sia un autogol della RAI questo? Sì, sì, sì, ma chi c'è attualmente, chi dirige la RAI lo dirige in nome di altri interessi, però sì. Ripeto, non voglio entrare troppo in merito a questa questione. No, ma io ci entrerei in merito, perché secondo lei quindi la moviola è qualcosa che comunque al giorno d'oggi ancora attira un vasto pubblico? Nauseato da come viene usata la moviola, in effetti è un'esagerazione ormai in questi anni, nell'ultimo decennio ormai è veramente diventato discorso del pollaio, sì. Il fatto è che portare e abolire la moviola quando non c'è la soluzione prima nel campo sarebbe molto più semplice, ma è talmente semplice, quindi di buon senso, che non si fa. Prima si mette la moviola in campo, non ci sarà più l'errore perché verrà immediatamente riparato l'errore arbitrale, è ovvio che non ci sarà più bisogno dei lunghi dibattiti alla sera fino alle 2 del mattino. In questo caso sì che verrà naturale per i programmi televisivi portare l'uso della moviola su azioni, sulla tecnica, sulla tattica, e magari in studio ci saranno dei veri tecnici all'Arrigo Sacchi che cercheranno di spiegare il perché e il per come si è svolta quella determinata azione, quella bellissima giocata. Ma è una conseguenza di una scelta a priori, vale a dire il buon senso di dire in campo la moviola, perché, cambio le regole, perché altrimenti la gente non si arrabbia più. Quindi, perché lei dice la gente, sarebbe la prima cosa che alla gente interessa, non è la bella giocata, la bella azione, ma è l'errore dell'arbitro, quella è la prima cosa che interessa, e dunque essendo quella la prima cosa che interessa, il calcio è sullo sfondo. Sono ragionamenti che insomma diffusi, che io fatico un po' a comprendere, però è così, questa è la realtà, e questo è anche il motivo per cui resto convinto che la moviola nel nostro paese sia ancora qualcosa di televisivamente inevitabile. Prima di tornare a chiacchierare con voi di moviola e affini, cosa che mi sta molto divertendo, 800 24 00 24 è il numero verde. Io vorrei parlare un attimo di sport con Giorgio Rondelli da Barcellona, sede degli Europei di Atletica, dove questa mattina Alex Falzer è tornato ad assaggiare il sapore del metallo che conta, non oro ma argento per lui nella 20 chilometri. Ciao Giorgio. Ciao Fabio, saluti a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Abbiamo ritrovato un grande atleta. Ma ci sono così, diciamo, considerazioni anche leggermente antitetiche sulla sua prestazione. C'è chi vede il bicchiere mezzo vuoto e dice in fondo aveva la miglior prestazione mondiale, 1:18:24, era partito con l'idea di uccidere la gara solo dal primo metro, però poi bisogna fare anche i conti con gli avversari, che in particolare con questo russo, un giovane non ancora ventenne, Emelianov, che è veramente un manuale della marcia dal punto di vista tecnico, e poi è più ventista, comunque campione mondiale allievi, campione mondiale junior. Lui ha continuato a marciare su 4 minuti al chilometro, cioè a un certo punto Alex ha avuto un momento di difficoltà e tirare il fiato, lui se n'è andato via, e quindi poi non ha mai corso rischi per la vittoria. Poi Alex è stato bravo comunque a rientrare in gruppo con gli altri italiani, Rubino e Brugnetti si è ritirato, Rubino in ritardo di condizione è stato quinto, e poi a balzare sul secondo posto con una bella progressione negli ultimi 500 metri in cui ha fatto fuori Vera. Qual è il peso specifico di questa medaglia? Ma lo potremo, intanto è importante perché per lui, perché lo rilancia, e per la spedizione italiana che parte subito col piede giusto, e poi lo si potrà dire solo dopo la 50. È chiaro che se poi fosse unito a un oro sulla 50 acquisterebbe un peso specifico tecnico ancora maggiore di quello che già ha avuto oggi. Certo. Giorgio, cosa ti aspetti in generale da questi europei, primi in chiave azzurra e poi in generale? Ma in chiave azzurra un'Italia a 5 punte, cioè Svizzera che già è partita bene, poi sicuramente contiamo sui salti con Andrew e Antonietta Di Martino, con una Kuzma che stasera sarà impegnata negli 800 metri è saltato un turno, quindi sono semifinali dirette, bisogna stare molto attenti perché passano le prime due migliori tempi ripescati, e si dice un gran bene della 4% maschile, che ha lavorato molto, anche se sulla carta Francia e Gran Bretagna hanno talenti individuali, certo, maggiori. E poi, per quanto l'Italia, poi è chiaro che ci può essere anche la Grenot, c'è anche Fabrizio Donato nel triplo. Sì, ci possono essere gli outsider. Ci sono sempre gli outsider, Gibilisco, sì. Che insomma, non diamolo mai per morto, è riuscito comunque a restare a galla dopo tutto quello che ha passato. Sì. Nel complesso gare, invece possono essere gli europei un po' della rivincita del vecchio continente, che è andato in calo sia alle Olimpiadi che poi ai mondiali. Possono prendere nuovi talenti. Il vecchio continente lo potremo sapere solo a Daegu e l'anno prossimo ai mondiali e poi alle Olimpiadi di Londra. E l'anno scorso teniamo presente che ai mondiali di Parigi l'Europa ha preso il minor numero di medaglie nella storia dei campionati del mondo, sotto il 40%. Però possono essere i campionati di giovani interessanti, di belle sfide, come quella fra Chambers, il grande peccatore inglese squalificato 2 anni, questo Lemaitre, primo uomo bianco sotto i 10 secondi netti. Poi la bella gara dell'alto, dove c'è la Vlasic, dove ci sarà la nostra Di Martino. E poi vediamo un po' che cosa offrirà gara dopo gara questo campionato. Chiaramente gli spagnoli cercheranno di fare la parte del leone nelle gare di mezzo fondo, e in campo femminile la grande madre Russia dovrebbe essere sempre la protagonista. L'Italia deve assolutamente rilanciarsi, cioè quella della medaglia di oggi, certo, di Svizzera, deve perché affrontare i prossimi 2 anni ancora con risultati negativi nell'atletica, dal punto di vista morale e psicologico, sarebbe assolutamente negativo. È comunque un paese dove l'atletica è in sofferenza un po' soprattutto nel versante sportivo, e non a caso ne abbiamo avuto ampie dimostrazioni nell'ultimo periodo, un po' in tutti gli sport. Grazie Giorgio, ci sentiamo nei prossimi giorni naturalmente. Va bene, buon lavoro a voi lì giù a Barcellona. Io torno a parlare con gli ascoltatori, Francesco e Nicoli, primi 800 24 00 24. Siamo tutti convinti del vantaggio Mediaset, l'hai compreso, scrive un ascoltatore. Di solito Mediaset innova, bella iniziativa la Rai, speriamo invitino alcuni buoni ospiti. Controcampo era inguardabile, solo urla e donne nude, scrive Francesco. Insomma, tanti messaggi variegati. Francesco invece da Roma è un altro ascoltatore al telefono. Sì, io diciamo volevo lanciare questa semplice idea, diciamo che quando c'è un attacco forse bisogna contrattaccare. Allora, semplicemente un'idea che mi diciamo ho da diverso tempo è dare una forte iniezione di tecnologia alla moviola, realizzando un pallone elettronico con degli accelerometri dentro, unire praticamente tutto un sistema che sta in rete nello stadio, che dà veramente degli elementi oggettivi, scientifici, su quello che è accaduto. O magari un quinto uomo che sta diciamo fuori dal circuito, che comunque viene sentito dall'arbitro nel caso in cui ci sono delle contestazioni. Sì. Va bene Francesco, siete fantastici, però certe volte veramente fatico a starvi dietro, siete molto molto più avanti di me. Nicola da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno. Dirò una banalità. È l'uso che si fa delle cose che determina se questi strumenti sono positivi o negativi. Sì. Per cui credo che la moviola abbia fatto fare anche dei miglioramenti alla classe arbitrale, abbia creato anche i presupposti per migliorare lo stesso calcio. Certo che se viene vista come strumento per modificare i risultati, come strumento per creare polemiche inutili, e come tutto quello che ma gira attorno è più chiaro che altro, vede Nicola, insomma, avrà capito anche lei, no, anche dalle telefonate precedenti, cioè per come noi guardiamo il calcio, l'episodio centrale non è il gol o la giocata, ma l'episodio centrale, ciò che più ci interessa, è quello che fa l'arbitro. Poi in funzione di quello che fa l'arbitro valutiamo tutto il resto, no? Perché il nostro modo di vedere il calcio è questo. La moviola a cosa serve? La moviola serve come alibi per chi ha perso, serve per alimentare discussioni, serve per alimentare le polemiche. Dunque anche la moviola stessa, cioè non è questione dello strumento moviola che la RAI vuole, ha deciso di bypassare, quanto il, ovviamente, tutto quello che ci sta intorno, no? Quella teatrino che si scatena intorno a quelle immagini che peraltro a quell'ora ormai sono tutt'altro che inedite, perché la gente le ha già viste mille volte. Però insomma, cosa vuole che le dica? La moviola non, insomma, è qualcosa che mi lascia abbastanza indifferente, anzi mi lascia totalmente indifferente la moviola, e mi lasciano anche abbastanza indifferenti i teatrini, che in alcuni casi possono anche essere divertenti, che si scatenano intorno alla moviola. Gianluca. Salve dottor Ricci, complimenti per la trasmissione. Io volevo commentare l'eliminazione della moviola dai programmi RAI. Quando ho letto la notizia, ho sentito per radio, l'ho accolta veramente con molto piacere, perché secondo me è uno dei pochi passi avanti che ha fatto la RAI, anche se in un ambito sportivo che è relativo, verso l'educazione degli ascoltatori. Io sono sempre fiducioso che, come diceva giustamente lei, chi col telecomando sceglie il programma da guardare ha un grosso potere. Certo. Sono fiduciosa nel fatto che le persone apprezzeranno il valore di questa scelta. Se rimettiamo lo sport al centro delle trasmissioni sportive, faremo un grosso servizio per gli ascoltatori, per i tifosi e soprattutto per far ridecollare il calcio italiano, che negli ultimi 10 anni, da quando si è perso in queste disquisizioni banali, ha intrapreso una via di declino che, sì, secondo me, se non usciamo da questo Gianluca, il calcio italiano, insomma, non è andato, un po' declinando per soltanto per questioni legate alla moviola. È chiaro che ci sono tanti altri fattori da tenere conto, che ci troviamo in un paese particolarmente predisposto a questo tipo di discussioni, perché non mi sembra che altrove ci siano di questi problemi. È difficile trovare nel mondo un programma, ad esempio, come A Tempo di Sport di oggi, dove siamo qui a discutere in maniera molto civile, ma anche sentita e partecipata, del fatto che l'ente di Stato ha detto va bene, i rallenti non li faccio più vedere, quindi non vogliamo più parlare di queste cose. Siamo molto particolari, diciamo così. La moviola in Parlamento? Domanda Vladi. No, basta lì, basta e avanza la presa diretta, mio caro. A proposito di Parlamento, reazioni immancabili parlamentari a questa decisione RAI, bipartisan, Giorgio Merlo PD. La proposta di Bandiero comunque ridimensionare la moviola dalle trasmissioni RAI sul calcio è sicuramente positiva, e il commento del presidente Garimberti a riguardo non può che essere condiviso. A due condizioni però, dice Merlo, che si introduca in qualche modo la moviola in campo, rieccolo, come avviene nel rugby, e soprattutto che la moviola non diventi la bandiera di altre emittenti televisive. Poi abbiamo il commento dall'altra parte, Cicchitto: il fatto che dalle trasmissioni RAI sul calcio per il prossimo campionato venga bandita o comunque molto ridimensionata la moviola è del tutto negativo. Cioè, infatti, vuol dire che le autorità calcistiche, in primo luogo quelle arbitrali, sono riuscite nel loro intento, visto che non hanno mai gradito l'uso di questo strumento conoscitivo, dice Cicchitto. Di conseguenza sta avvenendo questo fatto paradossale: invece di mettere la moviola in campo come avviene nel rugby, anche qui viene citato il solito rugby, la moviola in campo, ci si accinge a ridimensionarla anche in RAI. Dato che insomma su entrambi gli schieramenti si trovino d'accordo nell'introdurre la moviola in campo in stile rugby, io non posso che votare contro, a rafforzare la mia convinzione. Cesare, provincia di Ferrara. Sì. E sono qua, provo di dirle, provo di convincere un attimo come vorrebbe fatta la moviola in campo. Sì. Tre casi. Primo, vedere se il pallone è entrato o meno. Questo lo può decidere l'arbitro, ma anche su richiesta del capitano. Sì. Secondo, gli altri due casi, il gioco è fermo perché l'arbitro ha decretato un rigore inesistente magari, e il capitano della squadra può dire: ma guardi, tre volte, non di più. Guardi, mi può verificare alla moviola se è stato rigore o meno? L'arbitro, il gioco è fermo, non si perde niente. Terzo caso, vedere se un gol è stato fatto in fuorigioco o meno. Il gioco è fermo, hanno fatto gol. Se l'arbitro non fischia il rigore, il gioco continua. Se l'arbitro non fischia un fuorigioco, il gioco si ferma. Ma gli altri due casi, l'arbitro non fischia, c'è un fuorigioco evidente come abbiamo visto, il capitano ha la possibilità di chiedere: guardi, mi può verificare se è fuorigioco o meno? Finito. Si evitano, sa cosa si evitano? Sì. I casini che fanno in campo i giocatori che cominciano a menarsi, gli spettatori, sì, però, gli spalti che Cesare, cominciano però, a dire di tutti i colori. Ma io, sì? Va bene, io però mi domando sempre perché questo debba per forza accadere solo in Italia, perché all'estero queste esigenze... Tre volte no, ma ho capito, ma all'estero... Ma in quali casi specifici, sì, ma va bene, ma anche... Allora, sul pallone... Mancherebbe anche quello, se no le partite durano 8 giorni. Ma al di là di questo, ciò che io mi domando e quello cui non riesco a trovare una risposta, insomma, pallone col chip, se è passato la linea di porta mettiamo, non se ne parla più, anche se poi non accadrà perché lo sapete bene che Blatter non vuole, io mi domando, ma perché solo in Italia avvertiamo questa drammatica urgenza di avere la moviola in campo? Mi pare che all'estero, al di là della... è chiaro che gli inglesi hanno detto ci fosse stato il chip nel pallone magari non saremmo andati, l'ha detto per primo Capello, più degli inglesi ha detto Capello, perché io mi ricordo quel giorno Steven Gerrard andare in conferenza stampa e dire sì vabbè il pallone era entrato però noi abbiamo fatto schifo e la Germania ha meritato di vincere, ci ha asfaltati, quindi al di là di quel pallone che era entrato la verità è che ci hanno sotterrati. Questo ha detto Steven Gerrard, che non a caso è un giocatore inglese, mentre Capello subito però se ci davano quel gol chissà come finiva. Però il discorso è: perché solo in Italia e in tutto il resto del mondo no, si avverte questa drammatica esigenza? Perché? Beppe, provincia di Milano. Eccomi, buongiorno, grazie per l'opportunità di esprimere il mio pensiero. Sì. Dunque, assolutamente d'accordo per l'abolizione della moviola, anzi io mi definisco un po' un nostalgico di quello che può essere definita la telecronaca di una partita di calcio. A me la gente come Pizzul e i vecchi telecronisti, radiocronisti manca da morire. Sì. E oggi mi ritrovo... Adesso saprà che c'è Gentili a commentare le partite dell'Italia. Bruno Gentili, che viene dalla radio, infatti. Ottima cosa. Avrei qualcosa da aggiungere anche in relazione, sì, a quello, alle partite commentate durante il Mondiale, ma quello poi lo dirò alla fine. In questo momento la moviola per me ci sta facendo perdere quello che è il gusto del gioco. Non ci concentriamo più su quella che è l'azione di gioco collettiva o singola, ma quella ce la dimentichiamo subito. Quello che ci rimane dentro è che poteva essere un fallo o forse è stato interpretato male. Ma Dio santo, chi decide è una persona che deve decidere in una frazione di secondo. Mi rendo conto di dire delle cose già dette e ridette. Ma io chiedo a lei, allora la colpa è della moviola o di chi la guarda? Assolutamente, per me la colpa è di chi la guarda. Abbiamo dato troppa enfasi. Se lei ascolta in giro, la maggior parte delle persone non dicono io ho visto il replay e quello era fallo o non era fallo, ma le dirà hanno detto che era fallo o che non era fallo. Sì, sì. Non so se sono riuscito ad esprimere. Sì, no, ma ha espresso un concetto chiarissimo, un concetto, guardi, quasi ovvio, no? Cioè, il discorso è, come dicevo prima, sta nel fatto che noi in Italia il calcio lo guardiamo attraverso l'arbitro, non lo guardiamo attraverso i giocatori. Il personaggio centrale di ogni domenica è l'arbitro, di conseguenza l'appuntamento centrale è non tanto la moviola, ma hanno detto questo, hanno detto quello, ed è così, la storia è questa. Piuttosto nessuno riuscirà mai a dare una risposta, nessuno riuscirà mai a dare una risposta, ma anche perché non esiste, anche perché è nei fatti, alla domanda che ho posto prima: perché siamo l'unico paese che si pone di questi problemi? Altra digressione dopo l'atletica, subito. Sport e motori. E anche qui, se avete sentito la puntata di ieri, di argomenti del contendere ce ne sono stati molti, no? Dopo il Gran Premio della doppietta Ferrari maturata nel modo che sapete. Ieri ha parlato Montezemolo con parole di grande buonsenso. La squadra viene prima di tutto, ha detto Montezemolo, e al di là di una regola di grande demagogia vale lo spirito delle corse. Questo in sostanza ciò che ha detto il presidente Ferrari. Ottavio Davidi, inviato di Tutto Sport, ben ritrovato, ciao Ottavio. Ciao. Sarà finita qui? con le parole di Montezemolo, o andrà avanti? Andrà avanti, credo, perché comunque in Formula 1 non mancano mai le polemiche, sono un po' il sale di questo sport, visto che qualche volta la competizione non è divertentissima. E soprattutto andrà avanti perché a settembre, di fronte al Consiglio Mondiale della Federazione, ci sarà una coda per quello che è successo a Hockenheim. Però nei fatti credo che sia tutto abbastanza chiaro, e soprattutto penso che i tifosi, almeno in Italia e in Spagna, quindi i ferraristi e i supporter di Alonso, pensino che sia stata fatta la cosa giusta. Casomai sono tra gli altri, ecco, gli avversari che la pensano diversamente. Sì, gli avversari la pensano diversamente, ma hanno fatto le stesse cose, hanno fatto le stesse cose, ma giustamente, secondo me, perché non è questione di tifo, di Ferrari, di quant'altro. Sai, ieri gli ascoltatori continuavano a dire: ma c'è una regola, la regola va rispettata a tutti i costi, eccetera. Però è una regola che, insomma, fatta apposta per essere aggirata, perché lo spirito delle corse dice un'altra cosa. Ha ragione Montezemolo, ciò che conta è la squadra in questo caso. Ma io, non per fare il difensore della Ferrari, che non ha bisogno della mia difesa, sì, però penso che sia proprio così. Innanzitutto, molte volte dal 2002, quando è stata introdotta la regola che ha vietato gli ordini di scuderia, invece si sono visti fatti di questo tipo, e quest'anno il Gran Premio di Turchia per ben due volte palesi, uno alla Red Bull che è stato ignorato, e poi il fatto che sia stato ignorato ha portato all'incidente tra i due piloti, e uno subito dopo tra i due piloti della McLaren, così ha vinto chi voleva che vincesse la squadra e non invece il pilota che cercava di farlo, cioè Button. Però ci sono stati e ci sono ancora sempre ordini di scuderia più o meno mascherati, anche a livelli meno di vertice, che quindi passano abbastanza inosservati. Del resto la percezione che ha il pubblico che questo sia uno sport individuale, perché c'è un pilota contro un altro pilota, in realtà bisogna considerare che dietro i piloti c'è un lavoro di centinaia di persone. Certo, ma certo. Ingegneri, ma scusa, meccanici. Ottavio, ma lo scopo di un grande team, della Ferrari, della McLaren, della Red Bull, della Mercedes, qual è? Quello di vincere il mondiale piloti? E allora lì per quell'obiettivo lavorano tutti quanti, compresa la seconda guida, no? Certo. Detto questo, bisogna considerare che quella norma andrebbe cambiata. Non è l'unica norma, a dire il vero, di un codice sportivo un po' farraginoso e troppo complicato, difficile qualche volta da applicare, che andrebbe cambiata. Questa sicuramente. E non credo però, se devo essere sincero, che avverrà o che avverrà in tempi brevi. Ottavio, invece, quanto ai vantaggi della Ferrari, vantaggi agonistici che la Ferrari è riuscita a conquistare con le modifiche apportate, questo vantaggio della Ferrari evidenziato nella gara di domenica è qualcosa di definitivo in questo campionato o è meglio stare in campana? No, in Formula 1 di definitivo dal punto di vista tecnico non c'è mai nulla. Però quello che insegna il campionato quest'anno è che la squadra che ha avuto sempre una buona macchina, ma mai la migliore, cioè la McLaren, è in testa ai due campionati. La Ferrari ha avuto la macchina migliore a inizio stagione e non ha concretizzato la sua superiorità. Ha avuto la macchina migliore da Valencia fino ad oggi e per vari motivi, inutile tornare sulle polemiche di Valencia e Silverstone, in quelle due gare non ha preso neanche un punto, ha solo tra virgolette, insomma, conquistato la doppietta in Germania. E paradossalmente ha preso di più tra l'inizio del mondiale e questa fase qui, quando non aveva la macchina migliore ed è riuscita a conquistare dei punti. È molto importante la costanza di rendimento. La Red Bull, che ha la macchina migliore, questa costanza di rendimento non ce l'ha, infatti non guida i due mondiali. A questo punto, secondo te, la rimonta di Alonso è qualcosa di ipotizzabile? Ma chiave sì, mondiale. Noi adesso vediamo grossi distacchi, ma tutti i tifosi in primis non sono abituati ancora a ragionare con il sistema di attribuzione di punti che c'è quest'anno, che è diverso dal passato. In realtà la distanza non è così ampia, però è chiaro che bisogna continuare così, e bisogna dimostrare già a Budapest, una pista molto diversa da quella di Hockenheim, che i valori in pista sono cambiati e non sarà facile. Quella di Budapest sarà una gara difficile. Sarà la gara chiave del mondiale, almeno come inerzia del mondiale stesso? No, ci sono 9 gare, cioè 8, non ricordo se sono 8 o 9, comunque ce ne sono ancora tanti, i punti in palio sono ancora tanti, non siamo ancora in un momento in cui vincere o perdere taglia fuori o decide la stagione, però non ci si può più permettere di perdere dei punti, questo è fuori. Questo è evidente. Grazie Ottavio, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie, un piacere. Ottavio Davidi, inviato di Tutto Sport, con il quale chiudiamo il programma di oggi. Intanto mi stavo leggendo la quantità industriale di messaggi che sono arrivati oggi, ma domani riprendiamo a parlare, se volete, perché qui gli argomenti decidete voi, riprendiamo a parlare di tutti questi argomenti, Moviola compresa. Intanto grazie a Flavio Suarni in redazione, a Fabio Cantadori in regia. Domani dalle 2 alle 3 siamo qui, vi aspetto.